Le piacevoli notti, libro secondo di Giovan Francesco Straparola. Terza favola dell'ottava notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Marzia Marianera. A ciò che non si consumasse tempo, la signora ad Arianna impose che l'ordine seguisse, ed ella con gli occhi bassi, fatta prima la convenevole riverenza, in tal modo la bocchetta sciolse. Favola terza. Frate Tiberio Palavicino Apostata, poi fatto prete secolare e maestro in teologia, ama la moglie di maestro Checchino Intagliatore. Ella, con consenso del marito, in casa l'introduce, e trovato da lui, con una ignominiosa beffa fuori lo manda, e da morte lo libera. Se oggidì, graziose donne, e capi chiericati, ragionando però tuttavia di tristi e non di buoni, attendessero a loro studi, dandoci buoni esempi e vivendo santamente secondo la regola loro, gli uomini ignoranti e plebei non arrebbono tanto ardire con favole ragionar di loro, anzi li terrebbero in tanta venerazione che toccando le fimbrie delle loro vestimenta si riputerebbero salvi e beati. Ma perciò che si son mescolati con secolari, dandosi al mondo ed alle lascivie, e facendo quello che a noi vietar dovrebbero, senza riguardo alcuno in pubblici ed in privati luoghi di loro ampiamente si ragiona. Essendo dunque così, non resterò di raccontarvi una favola d'una apostata, la quale, quantunque sia alquanto lunga, sarà non di meno piacevole e ridicolosa, e forse di non poco soddisfamento vostro. Dicovi adunque che in Firenze, città nobile e antica, fu un riverendo padre, maestro Tiberio per nome chiamato. Di qual ordine egli si fusse, non ardisco affermare, perciò che ora non mi soviene. Costui era un uomo letterato, valente predicatore, sottilissimo disputante e di molta osservanzia e venerazione. Parve a lui per certi suoi rispetti, che mi sono incogniti, di porre l'abito fratesco e farsi prete. Ed avvenga che dopo la disposizione dell'abito non fusse in quella venerazione che era prima, pur il nome suo restava presso alcuni pochi gentiluomini e massimamente appresso la plebe. E perché egli era buon confessore, se gli appresentò dinanzi per confessarsi una bellissima donna chiamata Savia, nome veramente convenevole alla modestia di tanta donna quanto ella era. Costei aveva per marito uno intagliatore di figure di legno e chiamavasi maestro Checchino, e in quell'arte a tempi suoi non aveva superiore. Savia adunque, essendosi ingenocchiata dinanzi a maestro Tiberio, disse: «Padre, mi è mancato il mio confessore, col quale io comunicava i secreti miei, ed avendo inteso l'odore della fama e santità vostra, ovvi eletto in luogo suo per padre spirituale, pregandovi l'anima mia vi sia raccomandata». Maestro Tiberio, vedendola bella e fresca, che rassembrava una mattutina rosa, e conoscendo la gagliardezza sua, e che era in sul più bel fiore che esse potesse, s'accese sì fattamente di lei che, confessandola, era quasi impazzito, né sapeva la levarsi dinanzi. Venuto maestro Tiberio al peccato della lussuria, la interrogò: «Avete voi mai, madonna mia, per alcun tempo, avuta particolare affezione ad alcun prete o frate, del quale voi siate stata innamorata?» Ed ella, più oltre non considerando a che egli voleva venire, puramente rispose: «Padre, sì. Io amava sommamente il mio confessore come padre, e gli portava quella riverenza ed onore che il meritava». Intesa che ebbe maestro Tiberio l'ottima disposizione della donna, con dolci ed accorte parole si fece dire il nome e la condizione sua, ed insegnare la casa dove dimorava. Raccomandandosi a lei e pregandola che lo dovesse aver e tenere in quella buona grazia che ella avuto e tenuto aveva il suo perduto confessore, e per segno di carità, passate le feste di Pasqua, la verrebbe a visitare dandole alcuna consolazione spirituale. Di che molto lo ringraziò, e ricevuta l'assoluzione si partì. Maestro Tiberio, partita Savia, cominciò tra sé minutamente considerare la bellezza della donna e le maniere sue, e di lei maggiormente s'accese e nella mente sua determinò di ottenere l'amor suo, ma non gli andò fatto, perciò che egli non seppe così ben colorire come disegnare. Passate le feste della resurrezione, maestro Tiberio si mise a passeggiare dinanzi la casa di Savia, e quando la vedeva le faceva cenno e modestamente la salutava. Ma ella, che era prudente, teneva gli occhi bassi e fingeva di non vederlo. Continuando maestro Tiberio e salutandola secondo il suo costume, venne in cuore alla donna di più non lasciarsi vedere, a ciò che non nascesse alcuna sinistra sospezione che di lei aversi potesse. Il che gli fu di non picciolo dispiacere, ma perciò che l'amore l'aveva sì fieramente legato, che per se stesso di leggeri sciogliere non si poteva, deliberò di mandarle un chierichetto a parlarle, pregandola che ella si degnasse di far sì che egli potesse venire in casa, come padre spirituale, a visitarla. La donna, veduto il chierichetto e intesa la proposta, come prudente e savia, nulla rispose. Maestro Tiberio, che era astuto, inteso che la donna nulla aveva risposto, fra sé medesimo fece giudicio lei esser prudentissima, e che più fiate bisognava picchiare l'uscio, perché la ben fondata torre non combattuta agevolmente si mantiene. Onde deliberò di non mancare dalla cominciata impresa, e di continuovo le mandava ambasciate, e ovunque andava la seguiva. Savia, vedendo la perseveranza di maestro Tiberio e temendo dell'onor suo, molto si sdegnò, e un giorno al marito disse: «Checchino, sono molti giorni che mastro Tiberio, mio padre spirituale, ha mandati diversi messi a parlarmi, e ovunque mi vede non pur mi saluta, ma mi persegue ragionandomi dietro, ed io, per levarmi dalle spalle questa seccaggine, non mi lascio più vedere, né son donna più d'alzare gli occhi né di comparare in luogo alcuno». «E tu», disse ai maestro Checchino, «che cosa gli rispondi?» «Nulla», rispose la moglie. «Tu t'hai portata da savia come sei, ma fa che quando egli più ti saluti e che ti dica cosa alcuna, tu prudentemente gli rispondi con quell'onesto modo che convenevole ti parerà. Dopo raccontarammi quello che si è seguito». Essendo un giorno dopo desinare savia in bottega, perciò che maestro Checchino era andato per certi suoi negozi, sopraggiunse maestro Tiberio e, vedendola sola in bottega, le disse: «Buongiorno, madonna mia». Ed ella graziosamente gli rispose: «Buongiorno ed il buon anno, padre mio». Maestro Tiberio, sentendosi rendere il saluto, il che più per la dietro ella fatto non aveva, pensò avere addolcita la sua tanta durezza, e più focosamente di lei s'infiammò, ed entrato in bottega si mise amorevolmente a ragionare con lei, e stette più d'un'ora. Ma perché temeva che maestro Checchino non ritornasse a casa trovandola a ragionar seco, prese licenza, pregandola che lo dovesse confermare nella sua grazia, offrendosi pronto e parato ad ogni suo bisogno. Dicché ella il ringraziò assai, e da lui tutta sofferse. Partito maestro Tiberio, sopraggiunse maestro Checchino, a cui ordinatamente raccontò quello era seguito. Disse maestro Checchino: «Tu ti hai portata bene e risposo da prudente. Ma ritornando a te un'altra volta, tu gli farai una buona cera, facendogli quelle accoglienze che oneste ti pareranno». E così di fare, disse la moglie. Maestro Tiberio, che già aveva gustato i dolci ragionamenti dell'amata donna, cominciò a mandarle alcuni amorevoli presenti, i quali da Savia furono accettati, e poi, con umanissime e ben fondate parole, richiese l'amor suo, pregandola che quello non gli negasse, perché negandoglielo, ella sarebbe causa della irreparabile sua morte. Rispose la donna: «Io, padre mio, adempirei il volere vostro e mio, ma dubito di non essere scoperta dal marito e perdere in un punto l'onore e la vita». Queste parole a maestro Tiberio spiacquero assai, e furono causa di farlo allora in presenza della donna quasi morire. Pur riavuto alquanto, la pregò che di sua morte non fosse cagione. Savia, fingendo di avergli compassione, deliberò di contentarlo, e mise ordini di trovarsi la sera seguente con lui, perché il marito era la mattina per partirsi e andava fuori dalla città per comprare legnami. Maestro Tiberio, udendo questo, fu il più contento uomo che mai si trovasse, e tolta licenza si partì. Venuto maestro Checchino a casa, la moglie chiaramente gli raccontò ciò che operato aveva, ed egli disse: «Non basta questo, ma voglio che noi gli facciamo uno scorno che gli uscisca di mente la casa, né mai più sia oso di molestarti. Va, ed onorevolmente apparecchi il letto, e muovi tutto quello che si trova in camera, fuori le casse che vi sono intorno. Dopo metterai i due armai che sopra nulla vi resti, ed io altresì metterò la bottega ed asconderò il tutto. Indi voglio che li facciamo la festa che ti conterò». E puntualmente le narrò quello che aveva ad operare. Savia, inteso il voler del marito, gli promise di contentarlo. Pareano a maestro Tiberio 1000 anni che venisse la notte per essere agli stretti abbracciamenti della bramata donna, ed andatosene in piazza comperò molte cose e mandolle a casa di Savia, facendole sapere che ogni cosa diligentemente cucinasse, che allora debita verrebbe a cenare con lei. Savia, ricevute le robe, cominciò a parecchiare la cena e maestro Chechino si ascose aspettando che maestro Tiberio se ne venisse. Stando dunque maestro Chechino in aspettazione, ecco maestro Tiberio venire ed entrare in casa. E veduta l'amante che preparava la cena, volse darle un bacio, ma ella fece resistenza e disseli: «Sofferete un poco, anima mia, poiché patito avete tanto, che non è convenevole che io, così lorda alla cucina, vi tocchi». E tuttavia acconciava i polli nel schidone e la vitellina carne nella pentola. Maestro Chechino erasi messo ad un pertugio secreto che guardava nella camera e stavasi ad ascoltare ciò che fra loro dicevano e a vedere ciò che facevano, temendo forse che la Berta non andasse doppia. Stando dunque Savia negli suoi termini e fingendo di far or l'una or l'altra cosa, pareva a maestro Tiberio che l'anima dal corpo si partisse, e da ciò che piuttosto ella si espedisse, le porgeva mano ad apparecchiar le cose, ma ella meno s'affrettava. Vedendo maestro Tiberio la cosa andare in lungo, e parendogli l'ora oltremodo passare, disse alla donna: «Tanto è il desiderio d'essere con esso voi, che mi è fuggita la voglia di mangiare, né intendo questa sera altrimenti cenare». E trattesi le vestimenta di dosso, se n'andò a letto. Savia, che di lui se n'arrideva, berteggiando gli disse: «Qualche pazza resterebbe di cenare. Se voi, padre, siete pazzo a non voler cenare, il danno sia vostro. Io ora non voglio privarmi della cena». E così dicendo, continuava a fargli i servigi suoi. Maestro Tiberio pur la sollecitava che a letto se n'andasse, ed ella maggiormente tardava. Pur alla fine, vedendolo astoso, per accontentarlo disse: «Padre mio, io mai non dormirei con uomo che tenga la camiscia indosso la notte. Se volete che io venga a letto appresso a voi, levatela di dosso, che poi mi arrete pronta ad ogni vostro piacere». Tiberio, inteso il suo volere e parendoli cosa leggera, subito si trasse la camiscia e rimase nudo come nacque. Savia, vedendo aver condotto il buon padre dove ella voleva, prese la camiscia con tutte le vestimenta sue e posele in una cassa e quella chiuse. Dopo finse di volersi spogliare, lavare e profumare, e pur faceva alcuni suoi servigi per casa, di modo che il meschinello e semplice nel letto solo si consumava. Maestro Chechino, che per lo pertugio aveva veduto il tutto, chetamente uscì di casa e picchiò all'uscio. La donna, sentito il picchiare del marito, finse di smarrirsi e tutta tremante disse: «Oimè, messere, chi è colui che picchia all'uscio? Certo egli è il mio marito. Oh, dolente me, come faremo che quivi non vi trovi, o che non siate da lui veduto?» Disse maestro Tiberio: «Tosto datemi i miei panni, che io mi vestirò e asconderommi sotto il letto». «No», disse la donna, «non cercate altrimenti i panni, che troppo tardereste, ma salite l'armaio, che è dal canto destro della camera, che io vi aiuterò ad ascendere, ed ivi distendetevi con le braccia aperte, perciò che il marito, venendo in camera e vedendovi stare in croce, penserà che voi siate un crocefisso di quelli che egli il giorno lavora, e non penserà più oltre». Eppure il marito l'uscio fortemente picchiava. Maestro Tiberio, non penetrando più oltre, né considerando all'inganno del marito, ascese all'armaio, ed in guisa di croce con le braccia aperte si distese, né punto si muoveva. Savia, andatasene giù, aperse la porta al marito, il qual mostravasi adirato, perché la moglie non l'aveva così tosto aperto, e giunto in camera e fingendo di non veder maestro Tiberio, si pose con la moglie a cena, e, cenato che ebbero, se ne andarono ambiduoi a riposare. Quanto questo fosse noioso a maestro Tiberio, il lascio considerare a voi che provati avete i fieri colpi dell'amore, e massimamente sentendo il marito pascersi di quel cibo che egli sì focosamente bramava, e vedendosi per giunta avere il danno e le beffe. Già l'aurora si cominciava a dimostrare, e a poco vedevasi Apollo con i suoi ardenti rai uscir dalle marittime onde, quando maestro Chechino si levò di letto, e preparato gli strumenti e ferri suoi, voleva lavorare. Né appena aveva incominciato che sopraggiunsero due monache converse d'un monastero ivi vicino e dissero: «Maestro, la madre badessa nostra ci ha mandate qui a voi pregandovi che ne debbiate dare il crocefisso che per là dietro vi ordinò». Rispose maestro Chechino: «Madre mie, dite alla madre badessa che il crocefisso è principiato, ma non ancora fornito, e tra due giorni al più sarà servita». Dissero le donne: «Maestro mio, non abbiate a male. La madre nostra ne ha data espressa commissione che, fornito o disfornito, glielo portiamo, perciò che troppo lungamente l'avete tenuto». Maestro Chechino, fingendo muoversi dall'importunio stimolo delle suore, come adirato disse: «Donne mie, entrate qua in camera, che lo vedrete principiato e non fornito!» «Entrate le suore in camera», disse maestro Chechino. «Levate gli occhi a quell'armaio e vedetelo, e consideratelo per voi stesse se gli è a buoni termini e se poco gli manca d'esser fornito. Riferite alla madre badessa averlo veduto con gli occhi propri». Le monache, levati gli occhi in su, videro il crocifisso e con grandissima ammirazione dissero: «Maestro, come l'avete fatto somigliante al naturale! Egli veramente par vivo e di carne come noi! Certo che è bellissimo e piacerà molto alla madre ed alle monache. Ma una sol cosa», dissero le suore, «ne dispiace assai che voi non l'avete provvisto che si scopertamente non si vedesse quel fastidio che dinanzi tiene, perciò che tal cosa potrebbe partorire non picciolo scandalo a tutto il monastero». Disse maestro Chechino: «Non vi dissi io che ancora non era ben fornito? Non prendete di ciò affanno. Fosse così rimedio alla morte, come potrò rimediare a questo? Ed in presenza vostra ve lo farò vedere». E preso in mano uno di suoi ferri che radeva, disse alle monache: «Fatevi innanzi e ponete ben mente che tutto gli leverò via senza mio disconcio». Maestro Tiberio, che finora era stato sì cheto che quasi morto pareva, udito il ragionamento e veduto maestro Chechino col ferro di nuovo aguzzato in mano, senza aspettar più tempo né dir parole, si gettò giù dall'armaio e così nudo si mise a fuggire. E maestro Chechino col ferro in mano li corse dietro per levargli il fastidio che dinanzi teneva. Savia, temendo che alcuno vergognoso caso non avvenisse, prese il marito per le vestimenta e lo ritenne, acciò che il padre più agevolmente fuggisse. Le monache, che stavano attente, cominciarono ad alta voce gridare: «Miracolo! Miracolo! Che il crocifisso è fuggito!» Né si potevano dalle grida astenere. Al grido corse infinita di genti, e intesa la causa com'era, ne prese gioco. E maestro Tiberio, presi altri panni, della città si partì. E donde andasse non si sa, ma questo solo so, che mai più fu veduto. Fine della storia. Aveva Arianna già posto fine alla ridicolosa favola, né vi era alcuno che si potesse astenere dal ridere, quando la signora, percuotendo mano con mano, fece atto che ognuno tacesse. Dopo, voltatasi verso Arianna, comandole che con uno festevole enimma seguisse, la qual, per non parer da meno delle altre, così disse: «Donne, ho una cosa soda, dritta e bianca, liscia d'intorno e nel capo forata. Un palmo è di lunghezza, o poco manca. Dura di nervo e di sopra lordata, ed è sì avvezza che mai non si stanca quantunque su e giù sia dimenata. E questa cosa, donne, che vi ho detto, di ciascun dichiarisse il gran concetto». Risero assai gli uomini, ma non intendevano dell'enimma il suo significato. Ma Alteria, a cui il quarto luogo toccava, galantemente in questa guida le spose: «Altro quest'enimma non significa, eccetto la penna da scrivere, la quale è soda, dritta, bianca e nerbuta, ed è nel capo forata e lorda per l'ingiostro. Né mai si stanca, e dal scrittore in pubblico ed in segreto è su e giù menata». Commendato fu da tutti l'acuto ingegno di Alteria in esporre il sottile enimma. Non fu però senza grave sdegno di Arianna, la qual sola credeva sapere la sua esposizione. La signora, vedendola accesa nel viso, disse: «Arianna, acquetati ora, perciò che un'altra volta verrà la tua». Fine della terza favola dell'ottava notte. Registrazione di Marzia Marinera.